partir es un dolor. Ma sono stata ferita, il tuo contabile senza cuore. Ha separato la nostra vita. Temporale, temporale, ma questa pioggia non mi fa male. Tu dove andrai, dove andrò? Con l'acqua in fondo agli occhi, non lo so. Oltre il cielo, forse no. Oltre il cielo, non lo so, non lo so. C'è tanto che vorrei dirti, ma i tuoi ragazzi cattivi mandano avanti le guardie a fermarmi e tengo loro quello che scrivi. Temporale, temporale, che mi dà il tempo di respirare. Oltre questo cielo non ci fa male. Ti riavrò forse, mi riavrai forse. Dopo la pioggia mi respirerai. Oh,